dedicato al ladro che c'è dentro ognuno di noi. Ah no, questo no, eh. Ho scacciato alla nascita, non è mai più entrato, non si è fatto vedere perché ogni legnato. Don Lurio, ruba, ruba. Novecentosettantotto. Meglio oggi che domani. Ruba, ruba, ruba. In diretta. Questo è Don Lurio, fa vedere anche il 45. E noi ruba, tu rubi, gli ruba. E noi rubiamo, rubiamo, rubiamo. E solo un gioco chi ride, chi canta. Delle coreografie veramente spettacolari. Ruba, presentando ruba, insieme a lui. E lo io rubo, tu rubi, li ruba. Non sarà giusto, ma prendo con gusto. È solo un gioco, chi tanto, chi poco, chi niente. Ma ruba, ruba, ruba, ruba. Questo pezzo potrebbe essere una degna base per una di quelle letture di Travaglio, no? Che ci raccontano un po' le piacevolezze degli uomini che peraltro non abbiamo eletto noi. Tantissimi altri. Ma quanto è bello quando poi ne prendono uno, ne fanno un film e ci aggiungono la musica o radiofonica o di musicisti e noi ce lo guardiamo e io me ne foto e ti faccio sentire questa follia, prego. Risalutiamo le festi. Non rompeteci tutto, non rompete questa società. Non macchinate perché vi sentite defraudati. Acculturatevi piano piano e capirete che la cultura è fatta di mille nomi. L'ultimo investimento che la società ha fatto è il computer. E da lì ne è nato l'internet. Spiegavo che tutte le università, tutte le città vorrebbero dalla parte loro milioni e milioni di clienti, perché ciò non dà solo prestigio ma fa guadagnare, perché ci sono i commerci online e in internet che ormai stanno divagando. La televisione poi non ne parliamo, adesso c'è crisi, c'è tutto sotto prezzo. Oggetti di 300-400 euro. Just a man. computer ha fatto cambiare tantissimo il muoversi delle persone, si può collegare a un sito, lavorare a blog, si può lavorare a tutto, lavorare a eventi, a musica, sempre con il computer, non muovendosi da casa. Io che sono il vostro Valerian invece ascoltando musica e ho scoperto delle grandi cantanti come la Tatangelo di un bastardo eccezionale che era giro e guardo molto, sto molto attento e intanto ascolto e guardo e vedo le persone. Ah, lui può parlare, dire quello che vuole. Io con l'esperienza di lui sono entrato nella radio lei. Stand by. Qui si privilegia la pubblicità. Stand by. Si privilegia gli eventi. Si privilegiano ovviamente i libri. Venire alla radio vuol dire incontrare amici come Brando. E questo veramente è un putpurri scandaloso. Solo andando a cercare nei cassonetti più oscuri della trash siamo riusciti a cacciare questo branco di riff. E ricordo che i libri... Senti che groove, che groove. Per il libro uguale, può essere un bancale sotto altri otto bancali, devi spostare tutto per andare a tirare fuori quello, perché la serata è stata preparata da Brando Fede, dal vostro Valeriani, per presentare questi gruppi. Sembra il lavoro di chi, sapete voi. Quindi bisogna rispolverare e i volumi e i dischi. Insomma, io ho sentito AC/DC, Europe, Nirvana, Guns N' Roses, Police. Volevo dire che è mezzanotte e 7 minuti ed è sabato. Grazie a Dio, non è più venerdì. Esattamente, mezzanotte e 8 minuti. Siamo nel sabato 5, giornata di Piazzola a Bologna, un evento non male per vedere colori e persone e comprare eventualmente vai, se vai, ci vai, vuole. Vai. Vai. Grande Sergio! Grande! Citroso di una granulare, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore, fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Dimmi se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. L'impero è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare, solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Citrosodina. Seguito a una causa. Ho sempre pensato che si chiamasse Bimba se sapessi. In realtà è Citrosodina, no? Prima edizione si chiamò originariamente Citrosodina, successivamente la Citrosodina fece causa a Sergio Caputo e fu costretto a cambiare sia il testo che il titolo della canzone, divenne Bimba se sapessi. Ci sono tante sfumature anche nel colore, ah, le abrasioni questa vita ci fa. Andiamo avanti questo show. Ho forte mal di testa, furia di sgolarmi. Con un tuffo nel tuo cuore mi rinfresco. Bimba, se sapessi che monotonia. Tutte quelle palle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare. Io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia. Puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che ci tocca. Raccontaci Brenno, raccontaci qualcosa. Raffreddato, tosse, mal di gola, malessere. E questo disco di Soroton? La New York Jazz Ensemble. Quindi America, Stati Uniti, New York, la grande mela, The Apple, The Big Apple, investita da tutte le sue sfortune in questo periodo dalla neve, a musicisti di talento e locali che di volta in volta sono stati presentati. Da un po' di tempo non lo fa, lo vorrebbe fare di nuovo per rinverdire. Città vivibile e visitabile. Le partenze anche dall'aeroporto di Bologna, ormai con New York c'è un andi rivieni quotidiano. Io da piccolo lavoravo all'aeroporto. Vedevo celebrità e no. Lui può dire quello che vuole. Lei glielo insegniamo e l'ho già detto. Ho preso anche una bella mancia. Da un grande cantante. All'insieme di quando eravamo piccolini, più i piccolini che siamo adesso, insomma. Giovincelli, Giovincelli, Giovincelli. La radio fa piacere a molte persone, parlo di Radio Cittadino, ma ne vuole degli altri. Vuole entrare veramente importante nel mondo delle cose che si ricordano, delle cose utili. Il taglio di una radio moderna, bei locali, bell'internet, belle persone. Frequentateci, sentiteci, ascoltateci. Questa sera a Brenno. Grazie Radio Fujiko, è la prima volta nella mia vita che entro in una radio. Ti diamo il benvenuto, proprio un benvenuto radiofonico con un bel scrosciare di mani per divertirci. Ma ce l'abbiamo qua lo scrosciare di mani? Un campionato o niente? Bravo Brenno! Dai allora! Grazie, grazie! Li conoscevi, ragazzi? Adesso hanno tutti più di 70 anni, uno è morto, però veramente dei grandi della ska music. New York Ska Jazz Ensemble. E che il mulo sia con voi. C'è crisi. Mia ricetta per combattere questa crisi economica. Attenti! Qui c'è chi ha il microfono! Seguitemi! E tra un esclamativo e un interrogativo precedente vi informo che domani sera all'XM24 sembrare senza mai farlo capire, stile lo stile, moda è la moda. Sì! Ci sarà una serata danzante. A Pitana Ferrari tu non avrai rivali, dai. Entra anche tu sì nel club dei potenti, quelli che hanno lo sapete quanto è bello l'XM24 con Machi 57 alla console. Io stesso salirò sul palco e mi inviterò a divertirmi a ballare, a fidanzarmi e a innamorarmi. Vi racconterò di quanto sono piccolo e di quanto siete piccoli voi. Piccole peste. Vorremmo rompere tutto. Scontrarsi a Roma, rientrare, cambiarsi, tagliarsi i capelli, sbarbare, non far una paura. Insomma, è crisi, ci si ripassa, ma cosa vi andate a scontrare? Non andateci. C'è crisi. Vogliate bene ai radio, alla radio. Io fortunatamente ho un linguaggio che non usa vocaboli che impegnano il mondo del trascendentale. Io porto in giro Sonia giovedì. E l'enciclopedia radiofonica Reno ci mancava. Io porto in giro Giussi domenica. Alla B scriviamo Reno buono, nostro amico. Entra anche tu, devi entrare anche tu con me. Fai come me. Intrattenitore. Entra anche tu, devi entrare anche tu con me. Fai come me. Sì! Attenti! Come again! Affitta una Ferrari per essere al mio pari. Affitta una Ferrari, tu non avrai rivali, dai. Quindi se non c'è causa dei potenti, il garante fa passare un sacco di cose, di parole. Da pellicce sanguinanti, collari antipulci, il pezzo di diamanti può piacere o no, ma ne parlo un altro. I colleghi dirigenti, persone da imitare dai futuri già presenti. Affitta una Ferrari nel caso la cosa non vada bene. Buon lavoro a tutti. Noi da Radio Città Fuggico, voi. Volevo ricordare che c'è il Super Bollo. C'è il Super Bollo da quest'anno per chi ha un Ferrari, eh? Sì, dai, entra anche tu, tutto, sì, devi entrare anche tu con me, sì, dai, fai come me, sì, ma che bella una Ferrari, cari amici, cazzo, erano i New Tennessee questi, Gianni? Devi entrare anche bravissimi tu con me, stavo parlando della Ferrari. New Tennessee. Io Berlusconi, possiede una Ferrari. Ise Veneti, bravi Veneti, ma come cantano bene e quanto hanno fatto per l'economia del Nord-Est. Gianni, se sai usare internet, guarda un po' cosa sta succedendo a Genova. E ci sarà l'allagamento, Fede. Dai un occhio. Ho già visto la televisione. Sono già passate 2 ore, dai un'occhiata. Non per tristarmi. Fottiti in culo allora. Non voglio tristarmi. Se non guardi ti auguro donne fredde, birre calde e molti avvocati, ok? Sicuramente li andrò a servire, mi farò le scale o gli ascensori, la birra la metterò in frigo e le donne faranno ginnastica per scaldarsi, si vestiranno con vestiti caldi, ma ascolteranno sempre Radio Città Fuggita e sentiranno quanto la nostra realtà, perché non è sempre lavoro, ma è anche posto di tutto. E dicevamo, per far piano, voglio tristemente l'album dei ricordi, primi del 2000, tra boschi e prati verdi. Abbiamo iniziato a scaldamento, si diceva un tempo, roba di poco conto, tormentone del momento. Invece poi noi non ci siamo fidati dell'esperto che aveva garantito un deserto dei cammelli su una duna che da Bergamo a Verona osserva la partenza della gente della zona, pronti per sfidare il mare, andare verso. E conosco la notte delle città del mondo, o specifico la notte di Bologna. Io sono sempre uscito, mi sono divertito, ritornavo anche ore tardissime. Invece poi noi non ci siamo fidati dell'esperto, ho un pulito che come aveva garantito un deserto dei cammelli su una duna che da Bergamo a Verona osserva la partenza della gente della zona, pronti per sfidare il mare, andare verso. Tante persone come te, l'ultima spiaggia, metà selvaggia, alla ricerca di un tesoro, forse d'oro, di un po' di pioggia sull'ultima spiaggia, nella borraccia ancora qualche goccia. Quella radio poi per ricordarmi. Che bambola! E c'è qualche ragazza che ci ascolta, qui oltre. E la salutiamo. Viaggio su un barcone con un gruppo di padani che il sole del deserto ha trasformato in beduini. Dico che in Islanda sono sbocciati i fiori, cerca manovali per raccogliere pomodori, mentre noi, se avessimo ascoltato quell'esperto, non ci sarebbe traccia del deserto, dei cammelli su una duna che da Bergamo a Verona osserva la partenza della gente della zona. Ci saresti collocato in uno dei tanti stabilimenti. L'ultima spiaggia, metà che ci sono qui a Bologna, una delle tante zone industriali. Forse di un po' di pioggia sull'ultima spiaggia, nella borraccia ancora qualche goccia. L'ultima spiaggia, metà selvaggia, alla ricerca di un tesoro forse, di un po' di pioggia sull'ultima spiaggia, nella borraccia ancora qualche goccia. E si senta la scenda. Non so se notate la S sibilante tipica di serpente sonagli, che è un regime che vive, no? Da Porta Ticinese a Porta Genova a Milano, che è il mio paese d'origine naturalmente. Il personaggio del Terruncello è stato combattuto appunto fra, a livello di attribuzione, fra Diego Battantuono e lui. Xe Prec Sand Bell mi su Milano. Diego Battantuono, che mi piace per i suoi parla il Terruncello anche lui. Di sicuro il personaggio è stato interpretato da entrambi, ma non si è ancora capito chi per primo lo ha fatto. Il milanese che la famosa barriera qui che divide il nord dal sud, io non l'avrei fatta a Bologna, ma a Porta Genova a Milano, perché da Porta Genova in giù su in Digiterun, che sti derunga e vengono su al nord a rubare i laurani. Sand Bell, mi su milanese. Abbiamo mangiato giù tanta saliva nel mangiare. Scusate, mi sono talmente milanese che ho meno di tuo guardare le cose le per 15 che non possiamo milioni. Avere che solamente la madonnetta l'ultimo piano vale quella cifra adesso i due hanno occupato da una famiglia ma con gli sfratelli mandiamo viviamo in sciambola possiamo venire alla radio e cantare oppure incitarvi veramente a fare festa con noi scusa se smetto quando voglio break sound bella mi summila per uno diga e per l'altro Giorgio Porcaro e che anche noi siamo capaci di parlare per un gelo dunque sbarbatelli mettiamo i puntini sulle H e stiamo in gambana perché io sono talmente milanese che sul mio 128 Cruz che è come una Rolls Royce al posto del lancio la lata io ci ho messo oh, nel disco cioè termina così si ringrazia la regione Puglia per aver reso disponibili i milanesi eh sì sono cose simpatiche tronciolate break sempre bella no. Mi su Milano e lui può dire come vuole il terrugello in lei c'è Veronica ha chiamato l'ambulanza buon senso di impotenza io però non posso stare senza è inutile che faccia resistenza è un fatto di Patonza Patonza Patonza uomini uomini c'è ancora una speranza anche se Fini mi rovina l'esistenza ora che il giudice mi chiama per l'udienza con Scilipoti cambio la maggioranza con i soldi ricompatto l'alleanza e se poi la Lega ricomincia a far la stronza regalo a Bossi qualche ministero Monza e poi io mi consolo con la Patonza è un'usanza molto in voga dentro la mia stanza con l'aiuto della scienza e con un lento movimento de panza la Patonza è una cura per la serescenza con prudenza son 40 tutte in fila fuori dalla mia stanza la Patonza com'è com'è se mi chiedono dov'è dov'è a me la portano le sai perché pago benissimo intanto che le do la vitola dico di rimanere in Brasil che se rientra sono cazzi amari pure per me ai, ai, ai. Non riusciranno a prenderlo se resta lì la Patonza è su ballo che se balla nella villa è Brianza porco servizio tra le tetas se mi segno per la sua eminenza la Patonza è su baile che me bailo pure la distanza no lo esto a este mierda como il giudice me pegano in fragancia la la Patonza sempre smetto quando voglio per intrattenerci a quest'ora un'ora interessante potreste essere in tanti un ascoltatore ce lavoriamo mi muovo veloce sguscio di fuga la fine precoce che mi hai preparato il mercato è già pronta padelle sul fuoco mai sono come anguille picciò cambio gioco e mando a fanculo il tuo mercato di gente per bene fatto di video e canzoni per bene ma buone per la tua realtà virtuale naturalmente Breno ci sta dando anni questo ci piace anni sembrano tantissimi anni invece ne sono passati solo 20 da quando è uscito questo pezzo forse anche qualcosa di più non vorrei dire cazzate era un cinno io ragione il fatto è che non so per bene la mia faccia non è serena incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni e sono tanti anni che voglio sabotare sabotare sovvertire questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare sabotare sovvertire questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire sabotare sovvertire sabotare ¡Hola! fate miracoli, parla di money money, soltanto money money. No, non puoi fidarti di chi parla solo dei soldi. Al tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda. Sì, no, no, tu non credere a chi parla di marketing quando parla dei sogni e delle tue passioni. No, le strategie da manuale su di me non le puoi applicare. Quante volte lo dovrò spiegare? Tu usciterai a precisare che dalle folle mi farai acclamare. VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare con la tigre e il domatore. Ma che cosa ci posso fare se non mi lascia mai stare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Sai la guida cose? No, no, non è un serpente, né non saranno pesce, modo di vivere. Scivolazzo un buco che scomparisce, questo capitone a sera non fresce. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, non mi avrete mai. Smetto quando voglio, smetto quando voglio. Non fidarti di chi, no, mai. Non ne sa su chi sei. Vuol vedere solo gli zeri, numeri sull'airplay. Brenne è un uomo dall'accento indecifrabile. Mette gli accenti così a casaccio. E quindi viene fuori questa voce. Potrebbe sembrare un po' l'ambasciatore del Kazakistan. Il traduttore dal kazako all'italiano dell'ambasciata, no? Ma a noi piace così, dai. Un valore, un fuoco brucia per loro. Gioco la merdina dal sottosuolo. So che viene dal cuore. Nasce quello che ti sceglie. La musica non capisce. Preferisce tutta la merda che rientra dentro le soglie. Una guida cos'è? Pensa se mi fai re. Scivola sulle basi, frasi che colpiscono te. Pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo. Chi mi ascolta capisce il senso. Non avrete mai retto. Andiamo con un po' di anni 60. Pepe, ci vogliono giocattoli. Ritorna alle tue bambole, giocaci e fammi stare in pace. Tu sai che son d'amore facile e poi mi sembra inutile credere che il tempo ti migliori. Ma se ti innamorassi di me mi puoi cercare, corsa mi vedresti tornare e stare con te. Tu saresti il mio giocattolo, la bambola bellissima, l'unica che piacerebbe a me. Mentre c'è una bella musica, noi ce la un incontro aperto a chiunque desideri sperimentare tramite l'ascolto meditativo un percorso di autoguarigione ed espansione dell'energia individuale. La seduta di gruppo sarà preceduta da alcune pratiche di respiro e scioglimento della tensione. Seguirà la meditazione sonora con i suoni accordati alla frequenza della vita. La frequenza della vita, conosciuta come frequenza Schumann, definita anche come la frequenza del respiro di Madre Teresa, Madre Terra, è la più adatta ad un ambiente dove esiste vita ed è correlata alle onde cerebrali degli esseri viventi. Tale frequenza è di 7,83 Hz, cicli al secondo, e aiuta il processo di guarigione e rigenerazione dei tessuti. L'ascolto di suoni e musica accordate alla frequenza di guarigione facilita l'eliminazione progressiva di stati d'ansia, di stress acuto, di sbalzi d'umore e favorisce un maggior controllo emotivo, la tranquillità e il radicamento, la qualità del sonno e un ritrovato entusiasmo. Le esperienze vissute durante la meditazione verranno condivise dai partecipanti. Conduce la dottoressa Nora Paglionico, psicologa. Ingresso libero, previa prenotazione telefonica al 346 40 70 710. 346 40 40 710. Per informazioni scrivere a norapag/hotmail.it o telefonare al 34 64 04 0710. Portare una coperta e vestiti comodi per il completo relax. Che occasione, cari amici. In tema di meditazione, ascoltiamo una zebra qua. Mi piace guarire con la musica. Il battito di Madre Teresa, Gianni, è uno scandalo, veramente. Madre Terra. Sei uno scandalo. Madre Teresa, lo sappiamo tutti che ne aveva due di cuori. Dai, Gianni. Bene che è mezzanotte e 40, però. Partecipate in grande massa. E adesso una ventata d'ottimismo. questo è Sergio Messina. Sono stufa di tutto, non so se vi ricordate quando la primavera, nell'estate dell'86, Radio Radicale aprì i microfoni a chiunque. La gente poteva parlare per un minuto e mezzo da segreteria telefonica. E dopodiché questi monologhi, che potrebbero essere di insulti, oppure la richiesta per un lavoro, oppure politica a ruota libera, qualunquismo, bestemmie, venivano mandate integralmente qualche ora dopo che la cassetta era stata riempita. Fu un esperimento, una provocazione che portò molto bene a Radio Radicale, perché l'anno dopo ebbe 6 miliardi di euro di contributi allo Stato per seguire le dirette del Parlamento. E Sergio Messina prese questo spezzone di questa signora che si lamentava di quest'epoca di demoni e ci ha fatto questo brano che secondo me non è affatto male. Ma adesso cosa ci propone zio Brenno? Prova a dire. Claudio. Ops, la coda di Alina, poi. Claudio Bisio. Vai Claudio, vai, manda. Un classicone, eh? Cantore, showman, intrattenitore. Radici Tabucico, Claudio Bisio. Rapput. E quella volta una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso, io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che inseguita dalla notte già racchiude le speranze di un domani, tutto mio che mi appartenga e come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io dicevo sì capisco, voi gli scampoli d'assenza, ma pensavo puttana. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti quest'estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare i nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi scusa cara, cosa cazzo ti prepari per l'estate, siamo ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti, mi dicesti siamo onesti, vuoi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare i nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi no prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi, ma pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia ci andavate solo per sentirvi. Vabbè, basta così. E ti è passato per le mani dell'editore. Poi sei tornata dalla Grecia, io fingevo che non mi importava niente, ti chiedevo le notizie più banali, tipo chissà quanta gente avrei trovato, che bordello di turisti. Con Rocco Tetto. Non è che non si possono dire, cari ascoltatori, le certe parole. Con Rocco Tanica la canzone canta Bisio. Pescatori ci portavano del pesce, facevamo le grigliate sulla spiaggia, cantavamo squarciagola le canzoni di Battisti fino all'alba, tanto l'isola è deserta. Mi dicevi io pensavo, ma che cazzo, tutti quelli che ritornano dalla Grecia sono stati sopra un'isola deserta, tipo ciò presente due chilometri di spiaggia vuota col capanno e pescatori, ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo di isolacce devi averci questa merda di una Grecia. Questi pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare ed impiccarsi con le reti senza andare a infortunare le ragazze come te che normalmente sono brave, ma tra volte dagli eventi non disdegnano di fare la puttana. Brenno, Fede, insomma ognuno di noi te la sta mettendo tutta per portare. È un pezzone, Gianni, è inutile, è un pezzone. È un pezzone, dai. Certo, è un pezzone, dai, non mi parlare sopra, è un pezzone. Dai Gianni, è un pezzone, su. Dai, non c'è niente da fare. Io da solo chiuso in casa non potevo fare a meno di pensare a te lontana già da qualche settimana. Non parlarvi sopra, per favore, dai, non si fa. Dire che tu sei, saresti stata e riposti, sarai sempre di non è per niente radiofonico, cazzo. Sempre fatto dei film simpatici. Venuto al sud il suo. Mio amore, sì, il mio amore. Ed è stato veramente spazzoso. Nonostante qualche dissapore. Ve lo ripeto. Come non è che non si possa fare ingustarsi di una cosa e di un'altra. Io sorvolerei però. Dimmi cosa hai fatto con il greco sulla spiaggia. Io ho imparato tante tantissime cose. tu sei ritornata, ma ti stronzo. Ma non ho paura di dirle. Se ti lascio in faccia i segni del salvatore. Ve l'ho detto, servirmessa è stato per me un grande onore. Io non ti serverò. Sparare tutti i segreti dell'altare e della chiesa fino a tenere le chiavi del tabernacolo. Ho avuto anche le chiavi della radio. Sempre comportato bene, non ho messo mai le mani qui o là. Ho fatto quello che mi era stato detto. Non soffro di nessuna cleptomania, io vedo benissimo, parlo benissimo, faccio l'amore benissimo, sono simpatico, un corpo umano bello, mi sono sempre curato, muscolarmente sono forte, mi so difendere, ho mani durissime e un occhio, cari amici, incredibile. Ah, io metto capo veramente, ma anche persone più grandi e più grosse di me o più forti. Mi ha detto, e allora? Mi ha detto, allora dai, 103.1 Radio Città Pubblico. Per andare all'XM24 con Maghe 57 domani sera ci saremo anche io, Fede e tanti altri amici. E io andiamo a lavorare. E anche per partecipare con la psicoterapeuta. Ha informazioni sulla guarigione salute in un centro persone. Andiamo a lavorare per ascoltare Madre Terra. Andiamo a lavorare. Io li detto di questi tempi è un augurio, una volta era una condanna. Andiamo a lavorare. E fare il giovane per una condanna. E a pagare tante tante cose. Sapere cosa c'è sotto la terra, sopra la terra e sopra la terra, dopo aver lasciato Tizio, il suo eclettismo, il suo benvenuto subito, siamo entrati in una far west dove non si spara un colpo. Si va a cavallo con dei bei cavalli, tutti romantici, empatici, si va a fare una grande passeggiata nei boschi, nei lungo fiume e in riva al mare. Ragazze, lo abbiamo detto prima, Nora è la testimone. E ci sono bei ragazzi, che siamo noi. Le passeggiate a cavallo, tanto sicuramente. Averle fatte è una gran bella cosa. Lì la musica e la natura, la madre terra, cantano gli uccelli. Si sente il vento, si alza il sole, si conoscono le acque e il cavallo. Dal passo al proprio amore, noi sempre lì a dichiararci di per lui, che vuol dire, e può dire quello che vuole, e per lei, la sua sposa sociale. Che dire di questi guaglioni, Brenno? Grandisco, grandisco. Ma come stanno? Sono ancora operativi? Sinceramente non lo so. Hanno fatti i soldi con la SIA e boh. In Italia lo sai com'è, un disco. Sai che l'ho scoperto? Perché ci sono stati i Righeira poco tempo fa allo Comedy? Sì, no, lo sapevo, sapevo. Allora i ragazzi nell'83 hanno preso per i primi sei mesi dall'uscita del loro disco, di cui hanno venduto peraltro 5 milioni di copie di Vamos alla Playa, prendevano 120 milioni al mese di SIAE. la SIAE è uguale per tutti, però ci sono alcuni che sono più uguali di altri. Comunque poi Righiera gli hanno arrestati con una zainata di pastiglie sulla spiaggia di Rimini. Ricordo, frequentavo Rizzone in quel periodo. È stato un momentaccio, eh. Dopo questo brano volevo mettere un pezzo molto più romantico, a me molto caro. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Il primo sono io che ci devo ricamare su. Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca barbuta è sempre piaciuta, è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io la vispa printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, altri arrabbiati, un tutù di alghe nel blu chiamami Nunu. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Invece le sirene che sono ondeggia il pavimento fondo del mare della fantasia, tranne quelle per il assalgono i mali della nostalgia e si avvicinano navali e gamberi e schiudono perle le ostriche. Non ho perso la voce per un paio di gambe come la sirenetta in pegno d'amore, ma io la perdo fumando e bevendo nell'orgia dei sensi. Immaginatevi che io vado in fondo, ma proprio in fondo, sto disco ballando nell'ebbrezza felice abbracciando sulla terra tutto si consuma, l'amore all'alba si trasforma in schiuma, ma nell'abisso è tutto uno spasso. Puoi amare, puoi sempre incontrare. E io e la sirena sogniamo mentre ascoltiamo la vostra musica. Quando sei triste, nel fondale del mare, basta una sirena. Radiofonico qui da Smetto quando voglio, radice da bugie, la piena di squame dalla piena di belle persone. E dall'emittente alle vostre piccole grandi radio, quindi le riceventi. Per trovarvi come? Nuvole nevolanti, cavalucci di mare, di terre bagnanti. Ascoltate come strugola l'abisso, ora lo scandalo lo darò io. Avere le cuffie e seguire perché un programma visivo, televisivo. Potreste camminare per strada, potreste stare lavorando, insegnando. Chiamami Nunu. Vuoi mettere un po' in acqua e un po' in terra? Sì, quando l'acqua è sonda, cari amici, come sei è successo a Genova. Guadagnarti la birba, mamma mia, che disastro, volo limone, volo limone. Quanta violenza ti tengono all'acqua e quanta è violenza. Un'imbriaca a furia di spritz e mi ubriaca non se faccio le bizze. Se poi si ghiaccia crolla anche una montagna. Buttiamoci a mare, voglio tornare. Perché non è sempre lavoro alla persona, ma che non lo sappia il capitano, ma anche lavoro al territorio. Noi salutiamo i muratori, con lo torto finiremo con lui tra gli scogli. Anche l'assistenza civile di per dirvi bravi. Affondate con me, non è proprio un verso da sirena che canta in sirenese. Max, e immaginatevi se dopo il nuovo commento che ho messo, la sirena avesse un figlio a una figlia. Grande nuotatore, grande nuotatrice, ma per niente somigliante alla mamma, un bel paio di gambe lunghe appuntolate.